acqua va il mio cuore, corre verso il tuo amore. Chi più di me piange con te, sorride con te, lo sai perché, se manchi tu e qui giù per